Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Semplicità, tu tieni in tuo cuore, io m'unna non te so, più bella non c'è sta vicino a te. Mi scordi tutte pene e chi te voglia bene posta semplicità. Abbiamo bisogno di cose semplici per stare bene, ma sceglierle non sempre è facile, però niente paura perché sono qua apposta. Siamo qua apposta per aiutarvi, infatti nella puntata di oggi consigli per stare bene, per mantenere o ritrovare quella piacevole sensazione di benessere che è indispensabile, credo, per affrontare con il giusto passo la routine quotidiana. Ci aiuta oggi il dottor Filippo Ongaro che è qui in studio con me. Buongiorno. Che emozione, buongiorno. Semplicità. Sì, è una bella parola, no? Gli americani dicono spesso no pain, no gain, cioè nessuna fatica, nessun risultato, però in realtà le cose migliori devono riuscire con semplicità e quando proponiamo dei cambiamenti che sono troppo bruschi, troppo complessi, le persone fanno quasi sempre fatica. È interessante sapere cosa è successo durante le vacanze, cioè se le vacanze sono state un'occasione per disperdere un po' della buona volontà che avevamo guadagnato durante l'anno o viceversa invece per ritrovarla magari sfruttando un po' di tempo in più per fare un po' di esercizio, per mangiare un pochino meglio, no? Le vacanze hanno un doppio effetto, quindi sarà interessante capire come è andato. Magari proprio durante le vacanze molti di noi avranno sperimentato il benessere prodotto dalle piccole attenzioni a tavola come nell'attività fisica. E allora sono certa, dottore, che molti ascoltatori avranno consigli da darci. Penso a tutti coloro che, approfittando dei ritmi magari più lenti dell'estate, hanno inserito piccoli cambiamenti al loro stile di vita che hanno prodotto benefici, come si dice, nel corpo e nella mente. Sei così bella che stento a tenere gli occhi sul tassametro. Dottor Ongaro, nel corpo e nella mente, perché noi vogliamo cercare, e un po' mangia con me, soprattutto anche ispirandoci ai principi della nutrigenomica, abbiamo cercato di fare questo lavoro e continueremo a farlo. Attraverso quello che mangiamo riusciamo a stare bene nel corpo e nella mente, tenere queste due facce molto, no, in relazione, strettamente collegate. Bene, abbiamo parlato spesso, ne parlate spesso in trasmissione, credo che ormai sempre più ricerca indichi quanto corpo e mente sono estremamente connessi e quanto le nostre scelte di benessere o viceversa, scelte che ci nuociono e ci fanno male, sono poi connesse al nostro stato emotivo. E con il cibo devo dire che è particolarmente così, cioè veramente il nostro rapporto con gli alimenti, con l'alimentazione, le nostre scelte sono molto dettate dallo stato emotivo in cui siamo e diciamo che il cibo ha un'azione molto forte a livello cerebrale e quindi c'è veramente un'interazione doppia, mangiamo a seconda di come ci sentiamo e quello che mangiamo ha un effetto su come ci sentiremo. Quindi due piccioni con una fava. Assolutamente, cioè nel senso si può veramente lavorare sul metabolismo e anche sul benessere emotivo. 800 24 00 24. Dottor Ongaro, parafrasando il titolo del suo libro, potremmo intitolare la puntata di oggi Mangia che riparti? Mangia che riparti sarebbe molto bello, assolutamente. Ci potremmo collegare tante cose a questo, anche cercando ognuno di noi di capire che cosa ci serve per ripartire, no? Ci serve del buon umore, ci serve dell'energia, ci serve un po' di tempo da dedicare a noi stessi e per ognuno delle diverse problematiche potremmo cercare di trovare una soluzione. E diteci anche che cosa vi manca. Assolutamente, che cosa vi manca, che può essere il sonno, può essere l'esercizio fisico, può essere un certo tipo di alimenti che non vi piace e che noi vi possiamo aiutare a far entrare nella vostra routine quotidiana. Quindi riprendiamo il passo insieme, ditemi come riprendete il vostro, come vi sentite, che cosa vi sembra potrebbe aiutarvi a stare bene. Se siete pronti, allora direi di partire. Partiamo con il piede giusto e in studio con me ho anche il piacere di avere il professor Tirelli. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. docente di tecniche complementari all'Università Cattolica di Milano e autore di un libro che molti di voi mi stanno richiedendo e l'hanno chiesto anche nel corso di quest'estate, che si intitola appunto Tecniche Complementari Sportive. Professore, benvenuto anche a lei. La vorrei coinvolgere perché abbiamo capito che nella ripresa è assolutamente indispensabile ritornare ad un'alimentazione capace di darci tutto quello che è necessario per farci ripartire bene, però dobbiamo continuare a muoverci o riprenderci a muoverci. Ma cerchiamo di farlo con intelligenza, cioè sfruttando al massimo il lavoro dei muscoli e magari facendolo anche in maniera piacevole, perché questo diventa ancora più gradevole. Sì, questo è importante perché il fatto di fare di esercitare attività fisica deve essere sempre accompagnato da una sensazione di piacevolezza, altrimenti potrebbe risultare, come sappiamo, controproducente. Ma per esempio la prima cosa che mi viene in mente è la deambulazione, il camminare. Sì. Il camminare, per esempio, è la prima attività che possiamo riprendere dopo magari un mese e mezzo di pausa. Questo perché al di là del coinvolgimento di più di 300 muscoli che nella deambulazione noi andiamo a reclutare, abbiamo anche una importante situazione di riflesso sull'aspetto mentale. La deambulazione, la camminata, non è solo un passo dopo l'altro, in realtà è una ciclicità di movimenti. Quindi passo dopo passo lo stress scende, l'umore sale e aggiungeremo la linea ci guadagna. Le conferme arrivano anche dalla ricerca, sentire per credere e soprattutto convincervi. Camminare fa bene al corpo e alla mente. È risaputo, ma un recente studio della University of Stirling aggiungerebbe prove scientifiche a questa consapevolezza comune. Una bella passeggiata, infatti, favorirebbe il rilascio delle endorfine, sostanze in grado di placare il dolore e favorire sensazioni di benessere e buon umore. Dal punto di vista fisico, poi, la camminata apporterebbe gli stessi benefici di un'attività sportiva intensa. Andare a piedi è quindi vantaggioso da molti punti di vista. Ne guadagna la forma e anche l'umore. Non ha costi e non è troppo faticoso. I pigri, insomma, non hanno più scuse. Allora, via le scuse, professor Tirelli. Cammina, cammina, passo dopo passo, ma magari sfruttando qualche piccolo trucchetto riusciamo a... Adesso il dottor Ongaro mi ammazza, però a bruciare di più, a risvegliare un po' il metabolismo. Ci insegna? Sì, allora, innanzitutto ripeto, la consapevolezza del camminare è basilare. È proprio un piccolo cenno a questo significato. Allora, camminare vuol dire esercitare con ritmo e ciclicità un esercizio che ci porta ad aumentare anche quelle che sono le frequenze di onde cerebrali alfa. Sono quelle più vicine agli stati meditativi. Sì. Mi viene in mente per esempio il monaco vietnamita, si chiama Thich Nhat Hanh, che vive in Francia e che esercita proprio la cosiddetta meditazione dinamica. Cosa serve questo? Serve a muoversi, consumare quella che è anche un'energia pari talvolta a quella della corsa, ovviamente con dei tempi differenti, ma serve moltissimo a riprendere la nostra consapevolezza dello stato proprio di corporeità, di propriocettività. Allora, anche nella nostra situazione quotidiana, può essere in ufficio, può essere a casa, salendo le scale, noi possiamo compiere dei gesti in modo leggermente diverso. Ad esempio? Ma allora, partiamo dal gesto più comune, no? Laddove non prendiamo l'ascensore, si può andare ovviamente su per le scale e, anziché compiere il passo normalmente come si fa di solito, esercitare una pressione maggiore sull'avampiede e quindi lavorare maggiormente su quello che è il cosiddetto gastrocnemio, i polpacci. Quindi, detta semplice, vuol dire salite le scale in punta di piedi. Sì, si potrebbe fare, per esempio, su due piani. Io farei un piano normalmente, un piano in punta di piedi. Oppure fare un piano in punta di piedi e l'altro invece aumentando quella che è la flessione del ginocchio verso il nostro tronco, verso il mio addome. proprio per esercitare anche gli addominali. Quindi io salgo, aumento, esaspero un pochino quello che è il movimento del ginocchio verso l'addome. E questo è solo uno dei piccoli trucchetti che il professor Tirelli ci darà nel corso della trasmissione per farci muovere, ma sfruttare al massimo il nostro movimento per sicuramente il nostro umore, ridurre lo stress. Ma professor Tirelli, noi un po' di fatica la facciamo più volentieri se ne vediamo anche un po' i risultati, se magari possiamo permetterci qualcosa di più, se si sfila un po', no, la coscia, o si definisce un po' il bicipite. Però dottor Ongaro, si deve sempre fare un po' di fatica per stare bene? Insomma, chi vuole stare bene, un po' di sacrifici deve essere sempre disposto a farli, o no? Beh, ho esordito con no pain no gain, no? Quindi sì, direi che la mia filosofia è che un po' di fatica bisogna farla, però attenzione che in realtà per la maggior parte delle persone è una fatica mentale, cioè la fatica di decidere che con una certa regolarità devi pensare a te stesso, devi pensare al tuo fisico, devi pensare a come mangi e anche alla tua testa. Per quello che riguarda la fatica fisica, non è tanta la fatica che occorre fare per stare bene, no? E ci sono anche dei parametri ormai molto noti che la comunità scientifica ci dà, che riguardano poi il minimo di esercizio che va fatto per poter avere una salute ottimale. Non è poi così tanto, e credo che tutti noi possiamo fare quel minimo. Allora andiamo al nostro quizzettone 800 24 00 24. Carmelo Lauricella è pronto, sentite il quizzettone, rispondete subito all'800 24 00 24. Oggi abbiamo scelto, devo dire, delle domande abbastanza semplici, ce la faremo, ma perché? Perché vogliamo farvi vedere che insomma la fatica poi non è così faticoso, imporsi un po' uno stile di vita sano, si può essere molto molto piacevole. Secondo l'OMS, qual è il livello ottimale di attività fisica alla settimana per un adulto sano? A. 60 minuti. B. 150 minuti. C. 300 minuti. Allora, ricordatevi, 60 minuti, 150 minuti, 300 minuti. Dottor Ongaro, la ripresa al lavoro ci mette naturalmente a confronto con dei nuovi ritmi. Prima si mangiava a casa o magari in spiaggia, si aveva più tempo, si saltava addirittura il pranzo perché si approfittava, no? Per fare un po' di un bagno. Adesso c'è la mensa. Si ritorna a mangiare magari davanti al computer, si fa la spesa di corsa, insomma è finita, no? La pacchia, che si fa? Ma io penso che qualsiasi tipo di cambiamento è in realtà più che altro un confronto con se stessi piuttosto che con le condizioni esterne, no? Quindi io credo che bisogna veramente affrontare la ripresa con onestà intellettuale nei confronti di se stessi e decidere se si vuole puntare ad essere un po' più sani o no. E poi nella attuazione pratica io penso che in qualsiasi contesto è possibile migliorare il rapporto con la propria salute. Certo, se puoi governare come fai la spesa e dove mangi, è meglio che se devi mangiare in mensa. Però in qualsiasi condizione è possibile prestare più attenzione alla propria salute, e molto spesso noi usiamo anche queste situazioni un po' come degli alibi. E quindi non posso fare perché non ho tempo, perché c'è la mensa, perché. Bisogna riflettere un po' su questo. Ma soprattutto per riflettere insieme se ci sono dei momenti della vostra giornata, delle scelte che vi sembrano difficili, faticose da affrontare, l'idea di fare questi quattro passi a piedi, perché poi alla fine sono quattro passi, professor Tirelli, in punta sì, di piedi o con, no, col ginocchio un po' su, non è che ci voglia tanto. No, anzi, ma poi per esempio è una cosa anche alzarsi dalla propria sedia in ufficio per andare a fare la fotocopia, ecco, ripetuta più volte, ma con degli accorgimenti. Per esempio, se io avvicino le scapole mentre io cammino e al contempo magari contraggo un po' i glutei, faccio lavorare la catena cinetica posteriore, quindi questo insieme di segmenti muscolari che dalla testa arrivano fino a... Adesso andremo, gireremo proveremo tutte con i glutei contratti. No, diventa molto più elegante anche la camminata, no? Il cosiddetto petto in fuori, insomma, perché tra l'altro lì abbiamo due positive situazioni. L'una è la postura eretta, quindi una maggiore capacità respiratoria, e al contempo un'attivazione da un punto di vista, per quanto mi riguarda, anche dei meridiani energetici, di un meridiano importante che passa proprio al centro del torace e dell'addome, che si chiama vasoconcezione. È un meridiano che attiva tutte quelle che sono le funzioni del sistema nervoso autonomo, o che contribuisce all'ottimizzazione, certo, del funzionamento del sistema nervoso autonomo. E poi, insomma, è la figura ci guadagna. È molto, A proposito di attivazione, arrivano molti messaggi, sono ingrassata di qualche chilo, le vacanze portano quando un po' di benessere, siamo tutti un pochino meno rughe, un pochino più tondini. Ecco, attivare il metabolismo, dirgli: senti Ciccio, è l'ora, mettiti al lavoro anche tu come faccio io. Beh, allora, senza dubbio tante delle cose che stavamo dicendo adesso, cioè la ripresa, se c'è stato l'aumento di peso, ed evidentemente significa che le vacanze non sono state sfruttate per muoversi di più, ma per stare più sdraiati, bisogna invertire questa tendenza, e quindi questi accorgimenti nella vita quotidiana mi sembrano assolutamente eccezionali, anche perché da un punto di vista medico l'attività fisica nella quotidianità è una cosa ancora inesplorata e molto interessante, ed è la cosa basilare, più basilare che decidere di fare l'attività in palestra due volte alla settimana, no? Imparare a muoversi, ecco, nella vita, allora, quotidiana. Allora, vogliamo oggi lanciare questo invito agli amici di Essere Benessere, solo tra di noi proprio. Il dottor Ongaro ci darà qualche indicazione per fare delle scelte a tavola. Il professor Tirelli invece ci inviterà, come hai già iniziato a fare, a trasformare un po' quelle spostamenti che noi avvertiamo come inutili, no? Spostamenti morti, chiamiamoli così, come allenamento per i nostri muscoli. Abbiamo visto già le scale, ricordateveli, quindi in punta di piedi, quando ci alziamo, il professor Tirelli diceva la fotocopiatrice, ma anche le persone che stanno a casa, fanno i lavori, certo, oppure non è necessario avere una fotocopiatrice, ricordatevi un po' la chiappetta, di tirarlo un po'. Proviamo a fare quante volte questi piccoli esercizi e per quanti giorni, e poi magari ci iscriviamo se notiamo degli effetti, però facciamolo, iscriviamoci a questo corso di ginnastica quotidiana con piccoli accorgimenti, e poi su Facebook diciamo: beh, io però facciamolo seriamente, se voi ci state fatevi sentire al 349 238 6666, iscrivetevi, o all'800 24 0024, potete dirci se ci state e facciamo un gruppo di ginnastica quotidiana. Professor Tirelli, lei poi ci segue? Sì, volentieri, ma anche perché è una cosa, io non darei mai per scontato il privilegio di poterci muovere, cioè già il concetto di avere la possibilità di essere in buona salute, poterci alzare, muoverci fin dal mattino. Io mi sveglio al mattino e dopo è scontato a volte che posso anche guardare, lavarmi la faccia, il viso. Sì. Allora, io vado ad ottimizzare questo privilegio e, per esempio, già nel letto, prima di alzarmi, io posso anche con calma compiere qualche piccolo esercizio per gli addominali, perché sono già nella posizione classica, generalmente supina, quindi a pancia in su, fletto le ginocchia e magari proprio prima di alzarmi fletto il busto verso le ginocchia per 10 volte, è già un qualcosa in più piuttosto che niente, ma quel qualcosa in più ripetuto tutti i giorni è molto. Quanto ci diamo come tempo? 15 giorni per vedere i primi risultati? Io darei sì, tendenzialmente, allora 15 giorni già sentiamo il cambiamento. Da domani o da oggi facciamo? Allora siamo bravi, da domani. Però già qualche scala oggi in punta di piedi possiamo farla. Poi su Facebook e sulla nostra pagina vi mettiamo tutti questi progettini, tutta questa la ginnastica dei momenti morti per riattivare il nostro metabolismo. Il quizzettone, ve lo ricordo, secondo l'OMS qual è il livello ottimale di attività fisica alla settimana per un adulto sano? 60 minuti, 150 minuti o 300 minuti? Dottor Ongaro, una buona abitudine che molti dei nostri ascoltatori hanno preso durante le vacanze è la prima colazione. Allora, amici di Essere Benessere, dite la vostra, date la vostra ricetta, il vostro trucco di benessere, accettate l'invito, io do un consiglio a voi, voi date un consiglio a me, chiamandoci o scrivendoci. Ogni consiglio illuminato con un libro verrà scambiato. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Prima di sentire di nuovo i consigli dei nostri esperti, proviamo a dare un consiglio, sentiamo se ha da proporcene uno. Tonino, che ci chiama da Milano all'800 24 00 24, adesso è tempo delle vostre telefonate, per cui chiamate e noi vi risponderemo subito. Tonino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Avevi una domanda per il professor Ongaro a proposito. Gliela faccia difficile. No, è difficile, no. Io ho un ragazzone di 22 anni, il mio terzo figlio, che non mangia nulla di colorato, verdure in generale. Come posso fare a fargliele mangiare? Solo frullate. Beh, ormai però, ho capito bene, ha 22 anni. È un ragazzone, sì, ma ha bisogno anche lui di verdure. Ma Tonino, lì, diciamo, a parte appunto la caratteristica che ormai, insomma, si tratta di un uomo, quindi voglio dire, valgono le regole che valgono per l'adulto, ma ad ogni modo, insomma, l'esempio in casa è il primo passo, quindi tenere sempre le verdure pronte, fare, diciamo, essere di esempio per i ragazzi più giovani è molto importante. Spesso non mangiano le verdure perché i genitori non le mangiano. E poi anche, molto interessante, in libreria oggi ci sono moltissimi libri di ricette salutari, anche di amici nostri, tra Marco Bianchi, Paola Reverso, che si specializzano molto su come trasformare le verdure in qualcosa di molto interessante sul piano del gusto. Quindi, insomma, dobbiamo farcele piacere nel caso non venga spontaneo mangiarle. Ecco, voglio dire, diamo un'alternativa. Chi proprio le verdure non le sopporta, la cosa, uno può provare a mangiarle, insomma, fare dei frullati, dei centrifugati, certo, ma in alternativa... Beh, non esiste un'alternativa alla verdura. In alternativa mangiare la frutta, però non è la stessa cosa. La verdura è un alimento essenziale per mille motivi, e quindi anche se non in dosi massicce, chi non piace, qualcosa bisogna introdurne. Perché la frutta non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, ci sono delle somiglianze, però non è la stessa cosa. Senz'altro anche per il contenuto di zuccheri, la frutta, avendo molto fruttosio, ha un impatto sul metabolismo diverso rispetto alla verdura. Allora, ricordate i vostri consigli, quindi adesso dottor Ongaro ci fa... Allora, la verdura dobbiamo mangiarla, un po' bisogna soffrire, bisogna ritornare un po' a capire esattamente quello che mettiamo nel piatto. Ci dia un consiglio facile. Ci dia un consiglio facile come quello della chiappetta che ci ha dato il professor Tirelli. Ci faccia mangiare qualche cosa che ci piace e che non ci fa male. Allora, pezzi di cioccolato, pane e salame. Il cioccolato non l'abbiamo mai escluso. Sì. Se ci ricordiamo bene, il cioccolato fondente non l'abbiamo mai escluso. Poi per il resto riprendiamo in mano molte delle cose che abbiamo suggerito in Mangia con me. Per esempio, cercando di prediligere il più spesso possibile il piatto unico, a metà piatto mettiamoci le verdure, l'altra metà proteine nobili e cereali integrali. Questi piccoli cambiamenti non sono faticosi, c'è anche un'ampia scelta, cioè le verdure puoi scegliere quelle che vuoi, i cereali, se sono integrali, scegli quelli che preferisci, le proteine, scegli delle proteine buone, se ti piacciono quegli animali, mangia quegli animali, se no ci sono le proteine vegetali, cioè c'è ampia scelta per tutti i gusti, con una struttura di questo piatto che è stata proposta non da me in realtà, ma dall'Università di Harvard, che ha evidentemente più credibilità del sottoscritto. No, assolutamente, per noi è lei che ci, no, che ci illumina. Però il consiglio, il suggerimento che per questa settimana da testare per 15 giorni, qual è? Ma io proverei a dire facciamo un pranzo col piatto unico strutturato in questo modo. Ripetiamo, metà piatto verdura, proprio visivamente, senza pesare, metà piatto verdura, l'altra metà diventano due angoli da dedicare a delle proteine di buona qualità e dei cereali di tipo integrale, pasta integrale, riso integrale. Se uno come me non ama mangiare tutto insieme nel piattone, va bene, tipo Coletta, cane, ma non ti va bene niente. No, è vero, a me l'idea che tutto si mescoli eccetera non mi piace tanto, mi sembra di mangiare anche un po' meno e di non avere cura. Si possono fare tre piatti, cioè un bel piattone di verdura, no? Si trasferisce in tre piatti. Se rispettiamo le proporzioni, sì. Sì, io sono un po' noiosa. Professor Tirelli, lei ci ha fatto lavorare, abbiamo fatto, ma poi questi esercizi li riscriviamo, ce li riscrive di suo pugno nella nostra pagina. Un bel manuale. Dai, facciamo un manualino della... Devo dire che la chiappetta è piaciuta molto, e stanno arrivando molti messaggi. Funziona anche se uno sta seduto? Sì, perché per esempio in questo momento noi potremmo... Siamo più alti. Seduti, sì, fare un esercizio. Stiamo andando su e giù tutti nello studio. Contraggo, ma al contempo faccio una bella retroversione del bacino anche. Questa parola difficile, sa che quindi io quindi cosa la vuol dire? Mi immagino di essere su un'altalena, ok? Di essere dondolato avanti e indietro, col con la parte lombare, con la schiena bassa, sì. Allora a quel punto esercito anche la forza degli addominali, oltre che dei glutei, quindi agonisti e antagonisti. Poi la gente flutto non lavora più con questi esercizi. Ma adesso, ma è fantastica. Allora, abbiamo Cinzia dalla provincia di Verona. Cinzia, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Che bella allora, voce. Allora, mi trovo pienamente d'accordo, potrei dare un consiglio se mi permette. Deve. Mi trovo pienamente d'accordo con il professor Tirelli. Sì. Movimento, movimento, assolutamente movimento. Io 2 settimane di vacanza al mare, tornata in splendida forma, nonostante peccati di gola che a casa non mi concedo. Però tanta bicicletta, tante camminate e quindi per me è stato veramente un toccasana. È perfetta. E quindi la sua, il suo consiglio? Deve essere un consiglio però un po' accattivante. Camminare tanto, muoversi, andare in bicicletta, sfruttare qualsiasi spazio e soprattutto, come diceva prima il professor Tirelli, superare la pigrizia, che è quella l'unica cosa che ci ferma. Allora... Cinzia, che la stiamo perdendo, ma di cui abbiamo capito il consiglio, ci ha dato insomma camminare, vincere la pigrizia, tecniche complementari? Sì, anche sì, perché... possiamo darglielo. Certo, perché certo. L'ha citata 8 volte. No, glielo regaliamo con dediche, con estremo piacere. Tra l'altro, appunto, diceva Cinzia di questa cosa del sacrificio che anche il dottor Ongaro diceva all'inizio. Quindi il sacrificio non deve essere visto come qualcosa di negativo, ma un'opportunità di mettersi alla prova, tra virgolette. Non è nulla di severo, è una bellissima opportunità di capire quanto noi valiamo. E valiamo. Molto, moltissimo. E in linea con noi abbiamo un ospite speciale, pronta a darci il suo consiglio. Do il benvenuto a Sabrina Salerno. Ciao Sabrina, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Tra l'altro Sabrina, sai che io ho letto che tu hai appena terminato le riprese di un film con la regia di Frédéric Forestier e prodotto sì. dallo stesso produttore che ha avuto il premio Oscar per la pellicola The Artist. Sì, da Thomas Langman, sì. Film è in uscita in Francia il 24 di ottobre ed è un film che sicuramente avrà un grande successo. Senti, ma che soddisfazioni ci dai? diciamo che questo è un progetto che è partito 1 anno e mezzo fa, al quale tengo moltissimo e sono felice di averlo fatto, anche se in un primo momento non lo volevo fare perché non prendo mai progetti a lunga scadenza, ma alla fine sono stata travolta dal ciclone Thomas. Senti, quanto è diversa la Sabrina di oggi dalla Sabrina di... Sabrina, ma sono in continuo mutamento. Tu sei in continuo mutamento, ma certo che era bellissimo, perché vedevo già anche Miriam Lucchetti che è in redazione con me, che sentendo era già tutta che ballava, lanciata. E quindi il professor Tirelli è felice, perché se... La metteremo come colonna sonora degli esercizi, sicuramente. Esatto. Senti Sabrina, anche tu... tu non potrai avere nessun libro, perché il libro che nel caso magari il dottor Ongaro o il professor Tirelli ti volessero dare, io lo passerò direttamente a un ascoltatore, il primo magari che mi manda un messaggio molto carino, perché io sai che mi faccio comprare facilmente. Dammi il tuo consiglio di benessere, di ripresa, di remise en forme, un tuo segreto. Ma guarda, se è vero che siamo quello che mangiamo, io credo di essere abbastanza fortunata, perché io sono una persona che ama molto le verdure, non amo i fritti, non amo i dolci. Vabbè, allora, dai. E quindi non ho mai fatto una dieta nella mia vita, questa veramente mi rendo conto. Che ti potrebbe rendere antipatica, È molto antipatica, ma è la mia fortuna, credo. In compenso non sono così perfetta, nel senso che sono un po' pigra, sono poco costante, quindi l'esercizio fisico è molto altalenante nella mia vita, però c'è anche da dire che io di media faccio 3 spettacoli a settimana, quindi quello comunque già mi tiene comunque sicuramente in forma. Allora, dottor Ongaro, dia un consiglio a lei, a Sabrina, se ci fosse bisogno, perché ha tutte le fortune. No, ha tutte le fortune, adotta Sabrina, è piena di risorse, adotta naturalmente dei consigli, no, che ha appena espresso, cioè si autoregola, e penso che sia una persona che è capace di ascoltare il proprio corpo, come molto accade negli artisti. E tra l'altro il fatto stesso di continuare ad essere sempre in attività, di cantare, di ballare, di fare spettacoli, io credo che sia in realtà un'altra forma di esercizio nella quotidianità di una vita un po' particolare come quella che può essere la vita di Sabrina, però di fatto dà una continuità ormai da quanti anni, Sabrina? Perché sei sulle scene da parecchio. Ho iniziato, quindi... a 17 anni. Tant'è che io ogni tanto il consiglio che do alle persone che hanno bisogno è di andare a ballare, di ballare o di crescere. Ma quello è verissimo, perché la musica anche ha un grande potere sulla mente di... E poi brucia, si brucia. Si brucia. Bisogna adesso organizziamo una festa. No, però i ballerini, scusatemi, i ballerini hanno tutti 20 anni, ma a fine spettacolo sono tutti morti e sono più stanchi di me, quindi io mi prendo una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione l'avremo noi vedendoti con il tuo nuovo film. Sabrina, grazie e speriamo di incontrarci presto. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Sabrina. Eccomi qua, abbiamo Jaime che ci chiama da Roma. Buongiorno Jaime. Buongiorno, io volevo dare un consiglio semplice e uno un po' più difficile. Bravo. Per risparmiare un po' di sprecare un po' di energia. Sì. Allora, il primo semplice che io applico da un paio di settimane è quello di parcheggiare 200-300 metri un po' più distante rispetto ai primi posti disponibili con la macchina e fare il pezzetto a piedi, diciamo, un po' più lungo di quello, diciamo, necessario. Quindi sì, potrei parcheggiare a 100 metri dal lavoro, invece magari parcheggio a 500 e via, e si cammina. Esatto. Il secondo, che è, insomma, un po' più, diciamo, simpatico, ma un po' più meno applicabile, è quello di fare dei figli. Io ho un figlio di 3 anni e uno di 3 mesi, devo dire che da quando ho questi 2 figli ho perso 5 kg, quindi, diciamo, sono un consiglio un po' più difficile, ecco, però ecco, è sicuramente produttivo per il figlio. Sono dei personal trainer magnifici. Esatto, non ti fanno stare mai fermo, ti fanno fare, esatto, molto allenamento, molta fiato. Molta energia. A Jaime, dottor Ongaro, facciamo arrivare a casa sicuramente, mangia che dimagrisci, anche sì, se anche lui se non già ne dimagrito, ha bisogno, ma mangia che dimagrisci, comunque è sempre utile. Grazie a Jaime per averci dato questo consiglio, quindi, che piace al professor Tirelli, devo dire, un consiglio che... si legge spesso e si sente dire spesso, l'importante è farlo, perché poi uno cerca sempre, no, con la macchina, oppure non andare addirittura in macchina, perché io quando prendo la macchina dico, ormai ho preso la macchina, ho dovuto fare anche un goccio di benzina, sono stata nel traffico, parcheggio sotto, se no, no, se no vado a piedi. Quindi lasciate, sì, la macchina a casa. Sì, in questo caso bisogna avere anche la fortuna di potersi di poter scegliere di parcheggiare 500 metri più in là anziché 200, perché qui intorno, per esempio, alla radio è già una bella fortuna trovarlo, credo, sì, a 400 metri. Però, e poi a parte il professor scherzi... Tirelli ha già preso anche una multa, io anche. Io sfido ogni tanto, dico, vabbè, questa volta mi è andata bene e ogni tanto prendo la multa. No, però laddove è possibile lasciare la macchina a casa, e secondo me, potendo prendere la bicicletta, è una cosa fantastica. Anche la bici è una forma di meditazione dinamica. Su questo noi lo faremo una puntata intera sulla bici. Allora, abbiamo il quizzettone. Abbiamo Antonio da Verona, buongiorno. Vediamo se che cosa ci racconta, che risposta dà. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho fatto anch'io sport per molti anni alle arti marziali, però non so se sbaglio, facevo più di un'ora al giorno all'epoca. Però io direi almeno 150 minuti, essendo un fisico sano. Almeno 150 minuti, mettiamola lì. Antonio, tra poco poi il dottor Ongaro si sbilancerà. Intanto voglio salutare il mio amico, il dottor Ciro Vestita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma eccomi. Avevamo tanto piacere di sentirla, è un po'... C'è una voce così bella lei. Sì, bella. medico dietologo all'Università di Pisa. Di Pisa. Che ci aiuta con qualche consiglio di quelli super naturali, delle cose che abbiamo in casa. Io sono diventata una super fan del centrifugato di Cavolo, ad esempio. Però adesso devo aspettare un po'. c'è un lavoro bellissimo dell'Università di Exeter, il quale ha detto questo: il succo di barbabietola è paragonabile a un doping naturale. In soldoni, è stato studiato il consumo di ossigeno in un gruppo di ciclisti prima e dopo l'uso del succo di barbabietola. Sembra strano che questo umile ortaggio sia così prezioso, però le performance sono notevolmente migliorate. L'Università di Exeter è una delle più quotate in Inghilterra, quindi se abbiamo tempo prendiamo le barbe rosse banali, le centrifughiamo e le mangiamo e lo beviamo questo succo prima magari di andare in bici o di fare una partita di tennis. Un altro frutto meraviglioso in questo periodo è pompelmo. Sono pochi anni che è stata isolata questa molecola chiamata naringenina, la quale è utile contro il virus dell'epatite C. Bene, il discorso è questo: si avvicina la cattiva stagione, chi va in bicicletta, chi si espone alle intemperie può beccare il raffreddore. Allora io dico, se il succo di pompelmo è importantissimo contro un virus così letale quale il virus C dell'epatite, volete che non funzioni in maniera molto egregia nei confronti dei virus raffreddativi? Certo, distende subito. Esatto, la nostra esperienza all'Università di Pisa è questa, cioè dando in maniera continua anche ai bambini il succo di pompelmo, per lunghi periodi si ottiene un'energizzazione, il soggetto sta meglio, la pelle migliora, soprattutto di questi ragazzini che hanno delle forme acneiche, sì, ma soprattutto combattono queste tecnologie virali che adesso, con l'inizio delle scuole, che sono aperte oggi, iniziano a inondare praticamente ad, i nostri ragazzi che vanno a scuola. Dottor Vestita, allora noi abbiamo barbabietola, questo è il consiglio di oggi, barbabietola e pompelmo, rosa e pompelmo o non rosa. Dottor Vestita, lei deve venire qui però, qui a sedersi qua. Mamma mia, che pinocchio, che pinocchio. Devo trovarle un'erba per non dire le bugie, l'aspetto qua, la invito ufficialmente. Grazie al dottor Vestita per essere stato con noi. Noi ritorniamo agli amici che si sono candidati per rispondere al nostro quizzettone all'800 24 00 24. Alla risposta giusta daremo addirittura due libri, il libro del dottor Ungaro e quello del professor Tirelli. Quindi piatto ricco, mici ficco. Maria Rosa da Lucca, buongiorno, che cosa mi dice? Buongiorno, Maria Rosaria. Maria Rosaria, mi scusi, sì. Da Lucca. Sì. Sì, mi dica un numero. La prima risposta, la 60. La 60 per Maria Rosa, grazie Maria Rosa. Andiamo a Marcello che ci chiama da Modena. Buongiorno. Buongiorno Marcello. Io dico 300. Allora, dottor Ungaro, Antonio 150, Maria Rosaria 60, Marcello da Modena 300. Marcello vince, ha ragione, perché 300 minuti alla settimana, Nicoletta, sono poco più di 40 minuti al giorno. Marcello, ma lei li fa? Sì. O ha io sparato sì, io un ne numero? Faccio, ne faccio un po' di più. Bravissimo. Come ne fa un po' di più? Io alterno, io faccio un giorno bici da corsa, un giorno corro a piedi e l'altro giorno gioco a tennis, quindi sono tre cose abbastanza diverse tra loro, però riesco a farne. Senta, ci mandi la sua foto, ci mandi la sua foto su Facebook. Professor Tirelli, ma tutto questo sport non sarà troppo? Mi chiedo io. Vuoi la risposta tua? Sì. Sì, sì, sì, certo, sì, certo che troppo fa male. Bisogna troppo, anche un po' andare a ballare. Sì, senz'altro. No, complimenti Marcello, grazie per averci chiamato. A Marcello, tecniche complementari sportive del professor Tirelli, e mangia che dimagrisci, sperando che possa leggerli tra un'attività fisica e l'altra. Complimentoni. Allora, ricapitolando, noi dobbiamo lavorare ancora insieme al dottor Ungaro, perché possiamo dirlo, riparte Mangia con me, e quindi siete tutti invitati a pensare se volete cambiare un po' il vostro stile alimentare. Il professor Tirelli, adesso io lo chiudo qua, e facciamo per noi, per tutti noi che vogliamo fare la ginnastica quotidiana senza andare in palestra, sfruttando i piccoli momenti quando ci alziamo dal letto, e però ci diamo appuntamento per 15 giorni. Chi la fa si deve iscrivere e sinceramente farla, se non la fa si toglie e poi tiriamo le somme. Il bel Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, stupito, perché me la sono presa comoda per salutarla, sono assolutamente perfetta come orario, sto chiudendo bene, così vi posso ricordare che noi abbiamo Facebook, abbiamo Twitter, potete scriverci, soprattutto scaricatemi, vi prego di scaricarmi. Abbiamo Miriam Lucchetti, bellissima e bravissima in redazione, insomma, noi facciamo tutto per piacervi, speriamo di esservi piaciuti e speriamo che voi domani torniate a trovarmi. Un saluto dai miei ospiti, il dottor Ungaro. Arrivederci, a presto a tutti. Il professor Tirelli. Grazie, arrivederci a tutti, grazie. E un abbraccio dalla Nico. Buona giornata, domani.